Iperide tornò accanto alla ragazza. Tocca a me aprire l'assemblea. Si volse attorno, cercando di abbracciare tutti con gli occhi. La sua voce era chiara, non potente ma espressiva. Dunque, questa è la terza volta che vi incontrate. Peribea mi ha messo al corrente di tutto. Accennò alla giovane donna e al ragazzo che lo accompagnavano. Sto dilapidando il patrimonio di famiglia per affrancare decine di schiavi. Ma siete tanti, tantissimi, un esercito. E sorridendo amaramente verso di me, un esercito che continua a ingrossarsi. Dunque, io sono Iperide del Demo del Collito, libero e ricco cittadino di Atene. 40 anni, fino a pochi anni fa, ho fatto il logografo scrivendo orazioni giudiziarie su commissione. Prima ancora sono stato anche copista, come siete quasi tutti voi qui presenti. Attualmente la mia principale attività è la politica, ma il mio modo di pensare è diverso dai demagoghi, filosofi, nobili, arconti, magistrati, ispettori, commercianti, strateghi e sacerdoti. Cercò i miei occhi. Qualche mese fa, nel tempio di Eracle a Cleone, ed era chiara l'emozione che lo stava assalendo, giurai che avrei dedicato la mia vita a tentare di sciogliere le catene di tutte le schiavitù che l'uomo ha creato. E non staccava l'emozione del suo sguardo dai miei occhi. Da solo non credo di poter fare molto. Io ho bisogno di voi, così come voi avete bisogno di me. E finalmente si volse attorno, lasciando che il fuoco delle mie guance provasse a svanire. Tutti voi siete al servizio di uomini importanti, ricchi e potenti, come Diotimo, Nausicle, Licurgo, Polieucto, Egesandro, Egesippo, Demostene, Timarco, Leostene, e poi c'è Decade, per non parlare di Midia, per finire con Eubulo. I ricchi sono 1.000, ma quelli che hanno i soldi veri sono 300 più o meno. E continuò ad abbracciare l'assemblea con lo sguardo. Raccomando a tutti di non aprir bocca, almeno fino a quando non saremo riconosciuti come una delle tante corporazioni, il tiaso dei copisti. Bello, suona bene. Fece una pausa, poi riprese. Voi capite perfettamente il perché di tanta segretezza. Di quasi 100 copisti, tolto io, Echidna e Penteo, appartenete tutti al più grande gruppo di Atene e dell'intera Ellade, fino alla Macedonia. Gli schiavi. Siete schiavi particolari. Sapete leggere, scrivere e quindi vi rendete conto più di tutti gli altri di quanto sia ingiusto e folle lo stato della schiavitù e siete quasi tutti al servizio di uomini spietati e potenti. E cercava gli occhi di coloro che per timidezza abbassavano lo sguardo. Iperide aveva un modo di parlare e di gesticolare così semplice e naturale, una voce così chiara e limpida, che tutto in lui era trasparente. Il suo cuore, la sua mente erano lì nelle sue parole. Voi rappresentate un pericolo per i potenti di Atene, dell'Attica, dell'Ellade, di tutto il mondo. Perciò dovremo essere cauti. Dovrete fidarvi di me, così come io dovrò fidarmi di voi. Comunque sia, corriamo tutti, voi e io, il pericolo di fare una brutta fine. Voi alle miniere dell'Aurio ed io a bere la cicuta. Passò una mano nei capelli di Echidna e poi in quelli di Penteo con un gesto affettuoso. Vi riassumo i dati dell'ultimo censo di Atene. Ripeto, solo di Atene. Dunque, ci sono 40.000 stranieri e schiavi affrancati come Echidna e Penteo, che però non possono partecipare alla vita politica della città, mentre i cittadini liberi non raggiungono 70.000 persone. Ma anche questo dato è falso, perché di questi 70.000, 2/3 sono donne e bambini che non hanno diritti, praticamente come voi. Quindi non arrivano a 20.000 i cittadini liberi di Atene che comandano e decidono la loro e la vostra vita. Ma sapete in quanti siete voi? Un esercito, quasi come quello persiano. 200.000, solo qui ad Atene, senza contare il Pireo dove vivono altri 20-30.000 persone, quasi tutti schiavi. In tutta l'Attica, quindi, siete dai 250.000 ai 300.000. Potete pose le mani sulle spalle dei suoi giovani amici. Come cambiare la situazione? Questo è il punto. Io ho un programma, ora ve lo espongo. Poi sentiamo i vostri commenti, le vostre proposte. Dunque, si mosse di qualche passo nella nostra direzione. A mio parere occorrono due azioni congiunte. Una nei confronti dei politici e una verso la base, ovvero sia verso l'esercito a cui appartenete. Io parlerò privatamente e pubblicamente ai politici e all'assemblea dei cittadini. Voi diffonderete il mio programma, che all'inizio è questo: dare la cittadinanza agli stranieri e agli affrancati e abolire la schiavitù. In altre parole, dare la libertà a tutti gli schiavi, di tutta l'Ellade. Un brusio forte, ansioso, prese a serpeggiare nella grotta. Non si attenuava, non voleva spegnersi. Prima o poi qualcuno doveva trovare il coraggio di affrontare questo mostro di ingiustizia. Perché non voi e io? Ma io non sono filosofo né attore di teatro. Io devo fornire una motivazione per sperare che l'Assemblea voti la mia proposta. E la motivazione è semplice. Filippo il Macedone. Ormai è questione di poco. Da un momento all'altro il potente esercito macedone invaderà l'Attica, l'Ellade. E ci schiaccerà tutti, liberi, stranieri e schiavi. Potrà farlo grazie a un esercito potentissimo, organizzato e numeroso. Atene, l'Attica e l'Ellade tutta hanno una sola speranza: dare la libertà a voi, farvi diventare cittadini con tutti i diritti e doveri, compreso quello di difendere la vostra terra, perché questa diverrà la vostra terra. Difendere le vostre case, perché voi avrete una casa vostra. Il brusio divenne un insieme di fiammelle sonore, speranze e preoccupazioni. Non voleva saperne di spegnersi. Iperide attendeva. A un certo punto, uno di noi, lontano dall'oratore, si fece coraggio. Oltre al passaparola tra di noi, che possiamo fare per aiutare l'attuazione? Mi chiamo Pleurone, sono copista e schiavo di Pseusippo filosofo. Per adesso non credo ci sia altro da fare, al di fuori di far prendere coscienza a tutti voi che potrebbe esserci presto l'occasione per mettere fine una volta per sempre a questa aberrazione della schiavitù. Pleurone. Prendere coscienza vuol dire essere disposti a dare anche la vita se occorre. Si passò una mano nei lunghi capelli, si girò attorno, incontrai i suoi occhi luminosi. Mi feci coraggio. Sarà difficile convincere i timorosi, quelli di noi che hanno paura, a mettere la loro vita in pericolo. Appartenere alla categoria degli schiavi non vuol dire essere la forza degli eroi. Assiotea, tu non hai paura di morire? E mi fissava con uno sguardo intenso, scrutatore. Nello stesso momento in cui un arciere mi bloccò il braccio e un altro mi marchiò a fuoco, seppi che avrei dato la vita per cancellare questa ingiustizia. Cercavo di tenere a freno la mia emozione. Il tuo problema, Iperide, è come fare a persuadere i politici a far accettare la tua proposta dall'Assemblea. Il nostro è convincere i deboli che per cancellare questa vergogna della specie umana, i primi a mettere in gioco la vita dobbiamo essere proprio noi che subiamo questa ingiustizia, gli schiavi. Iperide annuiva e sorrideva. Assiotea, sei la copista di Demostene, è attorno a lui che forse si deciderà il destino di Atene. Ora come ora dobbiamo cercare di saltare sul carro di Demostene e di coloro che vogliono la guerra contro Filippo. Adesso Filippo incute timore davvero. Nell'arco di un anno il suo esercito è diventato il più possente. Atene invece è la potenza marittima per eccellenza. Solo al Pireo si sanno costruire navi da guerra, anche se il legno viene proprio dalla Macedonia. Quando il legno riesce ad arrivare e quando le veloci triremi sono state costruite, nessuno si vuole arruolare. Gli ateniesi poveri ma liberi non sono sufficientemente motivati per andare a morire in guerra. L'assemblea lo ascoltava rapita. Ripeto, questo è il momento giusto per mettere sul piatto della bilancia il più grande esercito dell'Ellade del mondo intero, quello degli schiavi. Ma per convincere gli schiavi ad affrontare Filippo c'è un solo modo: ridargli la libertà. Oggi Atene non dispone più di quel terribile esercito che riuscì a sconfiggere persino il gigante persiano. Oggi gli Opliti sono contadini e pastori dell'Attica, sono i cittadini più poveri e umili, gente bravissima ma non motivata. Oggi ci vuole ben altro che creare un potente esercito che non solo sottometta Filippo, ma che tenga ben lontano il re dei re. Artaserse di Persia, che già ha cominciato a lanciare ultimatum agli ateniesi. Atene e l'Attica sono accerchiate. Presto finiremo tutti scannati vivi o fatti schiavi. Volgeva il capo da una parte all'altra, i suoi fieri occhi verdi erano accigliati. Veniamo a voi. È inutile passare alla seconda fase, quella operativa, se prima non si accetta l'idea della mia proposta. Ebbene, noi siamo il Tiaso dei Copisti, ma in realtà diciamo che oggi si sta formando un nuovo partito politico, l'Associazione degli Schiavi, che ha come scopo primario l'abolizione della schiavitù. E lasciò che la sua voce sonora vibrasse a lungo su quest'ultima frase. Passiamo alla votazione. Vogliamo noi la creazione del Tiaso dei Copisti che perseguirà lo scopo di abolire la schiavitù non solo ad Atene ma in qualunque parte del mondo? La mano di Iperide svettò decisa in alto assieme alla mia, a quella di Marpessa, Echidna, Penteo, Pleurone, Peribea, Edifilo e di tutta l'assemblea. Non una sola mano mancò all'appello. Leggevo negli occhi di tutti un'emozione sconosciuta, ci rendevamo conto di presenziare un avvenimento di portata storica. E adesso, amici miei, passiamo alla fase più delicata, il da farsi. Iperide si passò una mano nei capelli. La maggioranza di voi lavora per un uomo politico, un oratore, un magistrato, un sacerdote, un ambasciatore, un nobile, un riccone, un commerciante d'armi, un filosofo. Fece una pausa di riflessione. I filosofi. Attorno ad essi si snoda un nugolo di uomini importanti, personaggi che potrebbero avere ruoli determinanti nel futuro politico di questa terra. E non a caso mi è giunta notizia che Filippo il Macedone sta cominciando a prendere contatti con l'Accademia Platonica. Annuì in modo grave. Per i potenti di Atene, questa associazione sarà una sfida, un pericolo per il potere economico e politico. Per poterli far passare dalla nostra parte, dobbiamo conoscere ogni loro mossa. E questo sarà il vostro compito principale, mettermi a corrente di qualunque novità. Ci fissava intensamente con i suoi occhi sfavillanti. La nostra rivoluzione appartiene alla stessa categoria delle guerre. Se riuscirà, muterà radicalmente il futuro dell'Attica, dell'Ellade e forse del mondo intero. Quindi dobbiamo affrontarla con tutti i mezzi e le tecniche di una guerra. Sarà un conflitto senza l'uso di armi tradizionali, ma con le armi della diplomazia, dello scontro o dell'incontro politico. Dobbiamo portare subito dalla nostra parte coloro che già pendono e uno dei primi potrebbe essere proprio Focione. Dobbiamo conoscere i programmi e i movimenti degli altri per far sì che ci appoggino. Demostene, ad esempio, è uno che potrebbe sposare la nostra causa, purché servisse al bene di Atene e dell'Ellade. Demostene potrebbe giocare un ruolo decisivo per tutti noi. Pertanto, mettendo un lavoro di eccezionale dedizione alla causa da parte di Assiotea, Marpessa, Difilo e Peribea. Iperide rivolse un'occhiata di particolare intensità verso il nostro gruppetto. Il punto di contatto principale è il Meteco Fione, il libraio dell'Agorà. È dei nostri, potete fidarvi di lui a occhi chiusi. Se per qualunque motivo non riusciste a contattare Ofione, allora raggiungetemi attraverso Difilo e Peribea. I miei aiutanti più disponibili e fidati. Ogni giorno, all'ora della pletora, li trovate all'agorà a fare la spesa. E protese un braccio verso di noi, indicandoci all'assemblea tutta. Scosse il capo con cenni nervosi, la preoccupazione negli occhi. Se falliamo, ci aspettano le miniere dell'Aurio, la tortura e la morte alla gogna. Gli ateniesi, questi democratici, sanno essere più spietati di qualunque tiranno barbaro. E rivolse a tutti uno sguardo velato di timore. Iperide quindi salutò l'assemblea e venne verso di noi mentre il chiacchiericcio nella grotta esplodeva. Si avvicinò e volle che gli riassumessi l'accaduto dopo il nostro incontro a Cleone. In breve lo mise al corrente. Mentre l'espressione di dolore sul bel volto mutava in rabbia, le mani modellavano armi in aria, sprigionando furia e impotenza. Che posso fare per te, Assiotea? Un giorno riscatterò te e Marpessa, così come ho fatto con Echidna e Penteo. Ma adesso è meglio che restiate a lavorare da Demostene. Se provassi a togliervi da casa sua, non me lo perdonerebbe mai. I suoi occhi volevano dirmi che era felice di avermi ritrovata. Iperide, ascoltami. Mia madre è stata uccisa per un libro, Il grande ordinamento di Leucippo. Nessuno ne ha mai sentito parlare. Darei la vita per saperne qualcosa. Poi aggiunsi, anche Ofione ne aveva una copia e gliel'hanno rubata. Tu sei stato discepolo di Platone, ne hai mai sentito parlare? Scrollò la testa, sorpreso. Forse i pensieri si erano rifugiati in un sogno, forse il mio stesso sogno, nella luce dei cieli alti di un tempio. Si scosse, si girò verso il forte brusio dell'assemblea, batté con forza le mani per chiamare l'attenzione di tutti. Amici, Tiaso dei Copisti, il chiacchiericcio scemò. Devo chiedervi un grosso favore. Da tempo sto cercando un libro, Il grande ordinamento di Leucippo, un testo che potrebbe essere molto importante per me, ancor più delle storie di Tucidide. Detti l'incarico a Ofione di procurarmene una copia, ma il nostro fedele amico l'ha persa. Voi tutti avete a che fare con libri e papiri. Conto su di voi. E se doveste avere qualche novità per me, comunicatela ad Assiotea tramite Peribea o Difilo. Grazie. Mi abbracciò, occhi guizzanti di brio. Ti aspetto a casa mia, Assiotea, assieme a Marpessa. Vi accompagnerà a Difilo. Parleremo di Demostene, di schiavitù e se ti farà piacere di una nuvola che ha portato via con sé sull'Olimpo un ventre gonfio. Un sogno, la luce della dea della giovinezza. Gettò un sorriso complice a Marpessa e si allontanò di corsa. Restai imbambolata finché la mano della mia amica provò a scuotermi con dolcezza prima, con uno strattone dopo, e dovetti affrontare i suoi occhi lucidi. Lui ti vuole. Il suo bellissimo viso era una maschera di dolore. Raggiungemmo Difilo e Peribea e approfittammo dell'occasione per parlare con Pleurone e Oleno. Copista e schiavo dell'uomo più potente di Atene, l'amministratore delle pubbliche finanze Eubulo. La caverna era impregnata del puzzo delle torce che bruciavano, ma la maggioranza dei copisti sembrava non volerne sapere di abbandonarla, riunita in tanti campanelli che si scioglievano e si rinformavano. Nessuno voleva porre fine a quella giornata memorabile. Eubulo, in realtà, non è un difensore della pace, è uno che sta a guardare quello che fanno gli altri. È un debole. Ma è riuscito a riunire attorno a sé la maggioranza dei politici e dell'assemblea. I ricconi poi lo seguono ben felici di non cacciare nemmeno un obolo per la guerra. Gli occhi di Oleno lasciarono Difilo e si posarono su Marpessa e su di me. Sarà molto difficile che Iperide o Demostene riescano nella loro impresa. La voce aspra accentuava la sua convinzione. Perdonate il mio pessimismo, ma sono stato al servizio degli uomini più potenti di Atene. Con Eubulo sono oltre 7 anni. In questo splendido paese, adagiato attorno al colle dell'Acropoli, incoronato dal Partenone da meravigliose statue, vasto, democratico, popoloso, aperto sul mare, ai traffici, alla cultura, alla filosofia, e un'amarezza profonda permeava la sua voce aspra. In questo spietato paese senza Dio, in questa città che si preoccupa di offrire gratuitamente il teatro ai poveri, questi maledetti ateniesi. A noi schiavi ci chiamano bestiame umano. Dal suo volto traspariva un dolore rabbioso, un vento impetuoso che veniva da lontano. Sorrise con amara ironia. E pensare che siamo una maggioranza schiacciante, basterebbe solo che ci ribellassimo pacificamente senza violenza per fermare l'Ellade intera. Gli alberi della Macedonia li tagliano gli schiavi, elleni o macedoni, li trasportano fin qui degli schiavi elleni o macedoni. Le navi da guerra. Le costruiscono i migliori carpentieri del mondo, gli schiavi ateniesi. A questo immenso esercito di bestiame umano basterebbe solo fermarsi. Che potrebbero fare i 1.000 arcieri sciti dell'Areopago? 1.000 arcieri, anch'essi schiavi. Quanto siamo stupidi, stupidi, codardi, ma soprattutto ignoranti, disuniti. E scuoteva la testa, un'amara espressione sul volto rugoso. Fu Pleurone a precedermi. Oleno, hai ragione tu, i cittadini hanno 1.000 occasioni per parlarsi, consigliarsi, decidere, ma da oggi anche noi abbiamo cominciato a tessere una ragnatela. Non essere così pessimista. Il giovane cercava di rincuorarlo, provando a rendere meno difettosa la sua voce sgraziata, mentre chiazze rosse incendiavano il suo viso liscio e paffuto. Saranno capaci di allearsi con Filippo, con Artaserse. Con Cerbero e Caronte, pur di non perdere il potere, la ricchezza e la vita agiata. Saranno disposti a chiamare in aiuto il più potente dei tiranni barbari, pur di spegnere questa rivoluzione. E il più potente dei tiranni interverrà senza dover fare patto alcuno, gratuitamente, perché questo incendio potrebbe appiccare lo stesso fuoco alla sua terra. Che fine ha fatto Antifonte? E scosse energicamente le braccia di Pleurone. Che fine gli hanno fatto fare a quel sognatore? Dimmelo tu. Tu, Pleurone, che lavori presso il sommo filosofo, presso quella masnada di ipocriti. Hai mai accennato ad Antifonte il sofista? C'è un suo libro nella vostra biblioteca. Negli occhi cisposi del giovane apparve uno sguardo triste. All'Accademia non c'è alcuna biblioteca. Platone non fa altro che screditare l'uso dei libri, dicendo che essi non solo non rispondono alle domande, ma che addirittura bloccano il pensiero umano. Pleurone si passò una mano nei corti capelli neri. Comunque, di Antifonte non ho mai sentito parlare, mentre ogni tanto vagamente si sente qualche battutaccia sul Cinosarge, su Diogene che vive nella sua botte, e quando si avvicina a qualcuno prende a masturbarsi in sua presenza. Poi, volgendosi verso di me, dimmi, Asiotea, ma di che parla il libro che va cercando Iperide? Mi pare abbia detto che l'autore sia un certo Leucippo. L'autore è Leucippo, maestro di Democrito, sono i fondatori della corrente di pensiero dell'atomismo. Il titolo dell'opera è Il Grande Ordinamento e Iperide ha incaricato me di trovarne una copia. Mentre pronunciavo queste parole venivo assalita da un'amarezza senza fine. Capivo che i miei tentativi per far luce su quel testo venivano continuamente stroncati. Non abbatterti, Assiotea. Il fatto che all'Accademia non ci sia una biblioteca non vuol dire che non circolino i libri. Domanderò. Chiederò, controllerò e ti farò sapere. Comunque non deve essere un autore importante, ma potrebbe essere un autore scomodo, come Antifonte. Non volevo accentrare l'attenzione, ma non potei fare a meno di chiedergli cosa si diceva nell'ambito dell'Accademia della condizione degli schiavi. Il povero Pleurone parve sgonfiarsi, sedette sulla panca e ci fissò uno ad uno. Ho paura che Oleno abbia proprio ragione. Io sono lo schiavo e copista del nipote di Platone, Pseusippo, e vivo all'Accademia. Mi ha comprato all'asta 8 anni fa. Platone ormai è vecchio e non è più quello di una volta. Alcune sue posizioni sono meno rigide e sulla questione della schiavitù ultimamente consiglia che sarebbe meglio non asservire degli elleni e non trattare troppo male gli schiavi. Piegò la bocca a un sorriso amaro. Ma gli altri sono pieni di salute e di energia. Il più spietato è Aristotele, il quale afferma che nella specie umana ci sono individui inferiori agli altri, per natura, e tali individui sono destinati alla schiavitù dalla natura stessa, perché per loro non c'è niente di meglio che obbedire. E scuoteva il capo sconsolato, ancora più rosso in faccia per aver gridato. Un silenzio grave piombò sul nostro piccolo gruppo. Difilo bloccò Oleno, che voleva intervenire. Iperide ha bisogno di un alleato, da solo non ce la può fare, per Dio. Perché non c'è nessun Dio che sta con noi? Dobbiamo cavarcela da soli. Fu la voce aspra di Oleno a spezzare quell'atmosfera di forte tensione. Per Dio, lo dico anch'io, perché una cosa di buono ha mostrato questa assemblea. Non sono stati chiamati gli dèi come testimoni del nostro giuramento, nemmeno Atena Ergane, né Aglaure, Ares, Zeo, Eracle, Tallo, Areia, Egemone, Ennio, Enialio, né i confini della patria, e non abbiamo giurato di lottare per la difesa di alcun santuario. Perché gli dèi, se esistono, se la fanno coi potenti. Capitolo 7. Demostene e Assiotea. Nulla accadde nei 2 mesi che seguirono. Iperide non era riuscito a trovare il momento opportuno per esporre il suo programma a Demostene, né a ottenere una data per proporre la supplica all'assemblea. Marpessa e io avevamo messo il naso fuori di casa solo 2 volte. In entrambe le occasioni ci eravamo recate all'agorà, alla bottega dei libri. Anche Ufione, però, non aveva novità di rilievo né per il tiaso dei copisti né per il grande ordinamento. In quei giorni stavamo lavorando alle orazioni contro Filippo, ma Demostene ci aveva dato pochissimi testi da copiare. Marpessa era più veloce di me a scrivere, ma quando lui dettava direttamente epistole che definiva molto importanti, preferiva utilizzare il mio calamo, in quanto diceva che la mia scrittura era più chiara. Quel giorno di fine pianepsione erano ore e ore che lavoravamo al lume della lucerna nello studiolo sottoterra. Gli occhi ci bruciavano per la stanchezza, non vedevamo l'ora che giungesse il momento della cena. Un rumore di passi decisi che scendevano le scale di legno ci distolse dai fogli di papiro. Apparve la figura di Demostene. La sua espressione era fredda. Ci ordinò di deporre i calami e di andarcene, non prima di aver visionato il lavoro che avevamo svolto. Marpessa si avviò, prese a salire le scale, feci per seguirla, ma lui mi abbrancò una spalla con una mano nervosa. No, tu resta. Marpessa provò a girare il capo, ma poi proseguì, l'andatura incerta. Demostene non si decideva a togliermi la mano di dosso. Si mosse un poco di lato, sfiorandomi con gli occhi da capo a piedi. Madre natura è bizzarra. Come maschio sarei stato conteso dai migliori uomini di Atene. Continuava a passarmi addosso uno sguardo viscido. Saresti stato il mio bel ragazzo di cui avrebbero cantato tutti i poeti. Sospirò. Peccato. Madre natura è davvero bizzarra. Farti nascere priva di un fallo turgido, che in questo momento al solo menzionarlo si sarebbe retto, e non avresti potuto far nulla per dire che non volevi, perché lui avrebbe parlato la lingua della passione. Abbassai gli occhi. Tremavo al pensiero di non riuscire a far scattare in tempo il flauto di Unai. Demostene non mollava la mia spalla, la stringeva con forza. Purtroppo, sono costretto quasi sempre a dire ciò che l'assemblea vuol sentire. Ieri ho dovuto ripetere che l'uomo può avere una moglie perché gli dia figli legittimi, una concubina per la cura del corpo e un'etera per il piacere. Ma non ho potuto proporre, perché diventasse legge, che l'uomo debba avere un ragazzo della tua età, Assiotea, bello come te, per raggiungere l'Olimpo durante questa vita, ma non incompleto come te. La sua voce era più sgradevole del solito. Disperata, afferrai il flauto. Le mie dita tremavano. Bizzarra, madre natura. E non si decideva a concludere il suo pensiero e non faceva che ripetere: non ti permettere mai di farti ricrescere i capelli. Da domani devi indossare un chitone da uomo. Accorcialo al ginocchio. Che peccato. Sei troppo bella per essere un maschio. Mi artigliava la spalla, lo sguardo spietato. I dèi sono stati proprio folli a generare Pandora e questo genere maledetto, queste tribù delle donne. Io posso disporre di te come voglio, lo sai, Assiotea? T'ho comprata. Ti ho pagata molto più delle altre e ora, se voglio, tu sei mia. Ora ansimava. Non volevo cedere a quello sguardo feroce. Cercai parole che potessero fermarlo. Hai comprato me, Marpessa, affinché fossimo utili al tuo lavoro e a tuo dire lo facciamo bene. Non gettare al vento una parte dei tuoi progetti. Con l'altra mano mi abbrancò il capo, furente in volto. Se io voglio, posso avere tutto da te. Tutto. Compreso l'anima, se tu la possedessi. Era rabbioso. Demostene, ho rinunciato alla condizione di donna libera per non giacere più con mio marito. E siccome non sei un uomo stupido, sai che ho un'anima come te. Ansimavo a mia volta a causa della violenza della mano che mi attanagliava, ma ormai dovevo proseguire. E proprio per rispetto a quella mia anima, se tu mi violenterai, subito dopo io mi toglierò la vita. Mi spezzava quasi la mandibola. E questo tu non potrai impedirmelo. Un'ultima stretta feroce, un ultimo sguardo spietato, poi mi lasciò andare. Mi appoggiai alle lune di pietra, quasi prima, priva di respiro, una mano ancora stretta al flauto. Sorrise beffardamente. Quel flauto è un amuleto, è così? Hai fatto bene ad attaccartici in quel modo. Solo una forza sconosciuta ti ha salvata. Riacquistò il suo solito aspetto, quell'apparenza così dignitosa, di uomo tutto d'un pezzo. Compresi di averlo convinto e mi abbandonai a un pianto silenzioso. I suoi occhi si fecero meno spietati. Andò a piazzarsi davanti allo specchio, prese a passarsi le dita sugli occhi, sulle palpebre e sulla barba. Posso andare, signore? Non riuscivo a frenare il mio pianto. Mi fissò attraverso lo specchio. Non ti muovere. Continuò a passarsi le dita sul volto, sugli occhi, a riprendere fiato. Infine Attraverso lo specchio mi disse: Sono sempre più convinto che non appoggerò il piano di Iperide. E si girò di scatto. Le lacrime mi salvarono. Ero così scossa che la mia sorpresa affondò nel pantano della mia disperazione. Masticò amaro, digrignò i denti. Non sta a me stabilire se voi donne avete o no un'anima. È un problema in discussione all'Accademia. E saranno Platone, Aristotele e la loro banda di chiacchieroni a risolverlo. Ma una cosa è certa. Tu, Assiotea, una mente la possiedi. E possiedi anche una bella dose di coraggio. Si passò le dita sul collo per asciugarsi un velo di sudore. Tu sei determinata e io non voglio gettare al vento tutte le dracme che ho pagato per te, giusto? Quindi io adesso dovrei chiederti se sai chi è Iperide, se sei venuta a conoscenza del suo progetto, e ti metterei in condizione di dover assentire o negare. Ma grazie a quella tua piccola mente determinata, te lo racconto io, come se tu non ne avessi mai sentito parlare. E mi guardava dritto negli occhi, dentro al pianto che non riuscivo ancora a frenare del tutto. Iperide è uno come me, oratore e politico. Entrambi siamo animati dallo stesso progetto, opporci a Filippo il Macedone. A proposito, oltre a copiarla, hai sicuramente letta la mia ultima orazione. Un tuo giudizio, non letterario, si intende. E si appoggiò al tavolo. Mi passai una mano sugli occhi e sulla bocca, asciugando come meglio potevo le lacrime. Credo che sia un piccolo capolavoro di eloquenza, ma non penso che l'Assemblea approverà il tuo piano, continuai, perché il tuo progetto richiede grandi spese, grossi finanziamenti, e da quello che si sente in giro, gli ateniesi ultimamente non possono o non vogliono finanziare alcuna guerra. Dalla sua faccia impassibile compresi che voleva saperne di più. Credo che l'Assemblea non abbia sufficiente intelligenza o coraggio per capire che 2000 opliti e poche triremi potrebbero giocare sul fattore sorpresa e arrecare seri danni all'esercito macedone. Lui annuì con rapidi cenni delle mani. Anche se agli schiavi e alle donne non è permesso di partecipare alle assemblee, un giorno ti vestirai come un maschio e siederai accanto a me. Un altro cenno delle sue mani, quasi a volere stroncare un mio intervento. Che cosa potrebbe spingere l'Assemblea ad accettare i miei piani di difesa attacco contro il Macedone? E serrò gli occhi in attesa. Gli ateniesi non ascolteranno nessuno, Demostene, nessuno che li costringa a rimetterci i dracme o la vita. Penso che i tempi gloriosi del passato siano finiti. Finché non vedranno l'esercito macedone assediare Atene, finché avranno grano e vino a sufficienza, seguiranno sempre chi gli prospetterà una scappatoia, una via d'uscita, un accordo con Filippo. In qualche modo volevo contribuire alla realizzazione del progetto di Iperide, ma non sapevo fino a che punto Demostene ne era a conoscenza. Credo che la forza degli ateniesi sia l'assemblea, la democrazia, ma questa stessa forza potrebbe divenire la loro debolezza. Annuì con un'espressione di estrema gravità sul volto. Esattamente. La nostra forza ora sta diventando la nostra debolezza. E i due giganti, Filippo e Artaserse, si stanno preparando per fare di noi un sol boccone. Mi fissò con occhi obliqui. Se tu fossi davvero quella ragazza integra che vuoi apparire, Assiotea, adesso metteresti sul lato della bilancia il tuo pensiero, senza attendere che io ti riveli il progetto di Iperide. E sgranò gli occhi, continuando a fissarmi obliquamente. Non potevo riflettere, era troppo svelto. Demostene, se il progetto che ti ha rivelato Iperide è lo stesso che in questi ultimi tempi sta volando sulle ali del vento, che si intrufola in tutte le celle degli schiavi, nelle pieghe delle loro ferite, alla ricerca di qualche rimasuglio di dignità, un vento infuocato che possa riaccendere qualche favilla di speranza, se è lo stesso, qualunque schiavo di questa città non solo può rivelartelo, ma gridartelo, con la speranza che tu lo abbracci facendolo diventare tuo. Aver compiuto questo primo passo mi dette un po' di coraggio. Atene, l'Attica e l'intera Ellade, per poter contrastare e vincere quei due giganti, hanno bisogno di un progetto grande, grandissimo, rivoluzionario. Una nuova linfa in questa società ormai diventata debole, arrendevole, corrotta nel fisico e nell'anima. Non solo un grosso esercito, ma un esercito motivato, simile a quello che sconfisse il gigante persiano. Lo vedevo attentissimo, non muoveva un muscolo. Quel piccolo esercito era mosso da una fede religiosa, sapeva che la morte per la patria era l'evento più bello dell'esistenza. Ecco perché migliaia e migliaia di mercenari persiani non riuscirono a vincerlo. Il suo respiro parve fermarsi. Prova a creare un esercito di mezzo milione, un milione di creature come me, assetate e affamate di libertà. Provaci, Demostene, e avrai creato un'armata invincibile. Spazzerà via chiunque, perché questo esercito sarà composto da esseri umani che non hanno mai conosciuto la libertà, che pur di ottenerla sono disposti a tutto. E tu passerai alla storia come il più grande degli statisti e dei condottieri, realizzando una rivoluzione mai riuscita prima nella storia dell'umanità. E abbracciai il leone di pietra, tremando, spaurita. Per Atena, adesso mi fissava con occhi torvi, sanguigni. Possiede lo stesso fuoco che anima quel sognatore di Peride. Un'espressione ironica distese il volto minaccioso. E così questo caldo vento di rivoluzione si insinua tra le pietre di ogni casa, compresa la mia. Per Zeus, potrei davvero passare alla storia. Ma come convincere 30.000 cittadine a dividere i loro beni e tutte le loro proprietà? Con 300.000 schiavi? Ma non si tratta di questo. Invece è proprio questo il punto. Qui si tratta di far cadere un sistema, una società che si è strutturata in comunità politica. La città ellenica in genere e Atene in particolare. Questa forza, questa potenza. Atene l'ha creata escludendo gli schiavi e le donne. E ora arrivano due pazzi sognatori, Iperide, del Demo del Collito, e Assiotea di Fliunte che si mettono a predicare follie rivoluzionarie. È la storia che si ripete. Il secolo scorso ha visto Antifonte predicare le stesse sciocchezze. Mi fissavi in attesa di un mio commento. Un secolo fa, per un ateniese morire per la patria era la più grande gioia della vita, Demostene. L'onore più grande. Ora non lo è più. Ecco perché il sogno di Antifonte oggi potrebbe divenire indispensabile per salvare Atene. Mi sentivo spossata, distrutta. Demostene prese a lisciarsi nervosamente la barba. Fra una settimana proporrò la mia orazione all'assemblea. Se le mie proposte dovessero essere rifiutate, convocherò un'altra assemblea a cui parteciperà Iperide, che esporrà il suo folle progetto. Verrai anche tu, Esotea. Ti vestirai da uomo. Parla con Peribea. Fatti comprare dei calzari da uomo, una parrucca, un imatio. Così ti coprirà il braccio marchiato e sopra mettici anche un chitone. Assunse una posa artefatta, sollevando un braccio, protendendo una mano verso le labbra, piegando le dita in attesa. Ora puoi andare. Mi staccai dal leone di pietra e presi a salire le scale di corsa, nonostante le gambe tremolanti.